I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. The two Tennessee men arrested Monday, Daniel Cowart on the left and Paul Schlusselman, told the Secret Service they first planned to kill more than 100 African Americans and then dress in all-white tuxedos and wear top hats during the assassination attempt of Obama. Insomma, avete capito, questo era il piano. Io non lo so, vorrei anche capire il vostro parere su questa storia, perché La Repubblica, per esempio, oggi apre con un titolo alto di prima pagina, un titolo principale della edizione odierna della Repubblica, con le seguenti parole: sventato piano neonazista per uccidere Obama. E si dà a questa notizia una rilevanza che, e non lo dico per così mettere a tacere gli allarmismi, ma insomma perché poi il quadro della situazione sarebbe bene che venisse anche dipinto in un modo corretto e anche con una certa moderazione. Insomma, hanno beccato questi due ragazzi, Daniel Cowart, 20 anni del Tennessee, e Paul Schlusselman, 18 anni dell'Arkansas, due skinhead piuttosto sciroccati e sicuramente con una tendenza al teppismo innegabile, membri di una società di supremazia bianca, delle molte affiliate alle forme di neonazismo americano. Il piano che avevano messo a punto è una buffonata che consisteva nel massacrare 102 persone di colore, afroamericani, 102 in quanto somma fra 88, che sarebbe la simbologia numerologica, sciocchezze di questa portata, di Heil Hitler, le due H, no? Le due H, 88, ottava e ottava lettera, allora 8 e 8, 88, insomma, siamo a questo livello del discorso, più un 14 che ci andava a cadere sopra in quanto il numero di parole contenute nella frase «We must secure the existence of our people and the future for our white children», dobbiamo assicurare l'esistenza del nostro popolo e un futuro per i bambini bianchi. Quindi 88 più 14, 102. A quel punto i due giovanotti si devono mettere un tuxedo, un frac bianco, naturalmente, perché queste cose si fanno in frac bianco, soprattutto se fai parte della supremazia bianca neonazista, e con il loro pick up dovevano andare addosso al palco dove Barack Obama stava facendo il suo discorso. Li hanno arrestati, adesso spero li sbattano nel fondo di un carcere a riflettere sulla loro stupidità, ed è pur vero che, per carità, l'America è il luogo dove gente improbabile come questa combina disastri di ogni ordine e grado. Quante volte abbiamo raccontato, ad esempio, le cronache di gente con le valvole fuori posto che è entrata in ufficio o scuole, ha aperto il fuoco e ha massacrato gente. Ma è altresì vero che l'allarme sociale in questo momento negli Stati Uniti è alto, l'emozione, il livello emotivo, il coinvolgimento di un popolo di 300 e passa milioni di abitanti è estremamente intenso, che per fortuna i media americani stanno attenti a gridare seriamente al mostro. Dicono che due cretini andavano in giro a vantarsi di un progetto delirante, oltre che criminoso, in quanto tale pagheranno. Ma aprire il giornale con un titolo «Sventato piano nazista per uccidere Obama», con un articolo intitolato «La paura e la propaganda», invece è una cosa che ci agita un po' di più, anche perché siamo convinti che poi il dibattito essenziale su cui l'America sta provando a esprimere la propria volontà democratica alla fine sia migliore di tutto ciò. Comunque, detto questo, che cosa stanno facendo quando ormai mancano 6 giorni e qualche ora? Vediamo, il sito di CNN c'ha anche un orologino che in tempo reale ci dà la mancanza, il countdown alle elezioni. Ecco, naturalmente adesso non funziona, comunque ve lo faremo funzionare, e sono 6 giorni e qualche cosa. Che cosa stanno facendo? Stanno le due campagne a pochissimi chilometri l'una dall'altra, stanno tutte e due le campagne in Pennsylvania, perché si è capito che questo stato ha un peso importante, significativo, e può essere la vera merce di scambio per arrivare o non arrivare alla Casa Bianca. In sostanza, vincendo la Pennsylvania, che pure Obama in questo momento controlla con un vantaggio che dovrebbe essere addirittura in doppia cifra, comunque oltre 1 milione di voti, sempre a livello di sondaggi, che dovrebbero pendere dalla sua parte. Però nel caso McCain riuscisse nel capolavoro di spostare all'ultimo momento la preferenza, i voti elettorali della Pennsylvania, i 21 voti elettorali della Pennsylvania in proprio favore, la cosa avrebbe molto peso. 6 giorni e 13 ore, ecco, Emiliano ha fatto scattare il calcolatore di CNN, 6 giorni e 13 ore al voto. Vincendo la Pennsylvania si potrebbero perdere altri stati chiave, altri stati che vanno da una parte all'altra, e ancora sperare di poter vincere le elezioni. Questo è ciò su cui punta lo staff di John McCain, per cui in questo momento a 90 miglia, 150 chilometri l'uno all'altro, le due campagne elettorali praticamente in contemporanea stanno spingendo sulla popolazione della Pennsylvania. Vi ricordo che il rapporto di Barack Obama con la Pennsylvania non è buono, nonostante ora sia in vantaggio, nonostante alla fine i suoi argomenti sembrino avere la meglio, non è buono perché è lo stesso posto dove Obama ha fatto la sua peggiore gaffe, dove ha detto: ma qui alla fine la gente pensa troppo alle pistole e pensa troppo a Dio, e quelli della Pennsylvania si sono molto offesi. È il posto dove il deputato veterano Murtaugh ha detto, per giustificare i suoi concittadini dello stato della Pennsylvania e per salvare la faccia a Obama, ha dato agli abitanti della Pennsylvania dei redneck, ovvero dei po' dei bifolchi, e questo non è piaciuto per niente agli abitanti della Pennsylvania. È il posto dove John McCain avesse usato meglio alcuni amici importanti che ci sono da quelle parti, tipo Arlen Specter, per esempio, che è un personaggio popolarissimo in Pennsylvania, forse avrebbe avuto effetti, risultati migliori, l'avesse fatto prima, invece di continuare a insistere a mandare in giro, come sta facendo adesso in campagna elettorale Joe l'idraulico. Lo sapete, Joe l'idraulico adesso fa campagna elettorale ufficialmente per John McCain nel vicino stato dell'Ohio. Ma sentiamoli registrati appena un quarto d'ora fa i comizi dei grandi protagonisti di questo rush finale. Here and pretend that what changes I'm talking about are going to be easy, especially now. The cost of the economic crisis, the cost of the war in Iraq, means that Washington is going to have to tighten its belt, just like you have had to tighten your belt in your family. Questo è Obama che sta rassicurando la solita formidabile folla che si è radunato ad ascoltarlo a Chester, Pennsylvania, riguardo al fatto che il piano contenuto in quello che è stato il closing argument che ha pronunciato ieri nell'Ohio sia perfettamente estendibile a tutti gli americani, o almeno al 95% di essi, ovvero pagare meno tasse ma ritrovarsi in uno stato migliore che fa più cose per te, soprattutto a partire dagli aspetti della educazione e della sanità. Questo closing argument, tra l'altro, sarà anche al centro degli speciali televisivi che domani Barack Obama ha acquistato nelle principali televisioni reti nazionali americane, grazie a quel formidabile tesoro di quattrini che può ancora spendere mezz'ora in prime time, in ora di punta, la sera di mercoledì, domani sera, per parlare, per ribadire agli americani il proprio progetto, quel progetto partito 21 mesi fa, quando dichiarò la propria candidatura a Springfield, Illinois. E nell'occasione del discorso di ieri dell'Ohio ha ritrovato un po' quei toni, no, retorici, anche da grande oratore, da predicatore, che avevano contraddistinto i suoi primi accenti. In un certo senso ha cercato un po' di racchiudere il suo messaggio, quello pragmatico ma anche quello psicologico, nei confronti dei suoi elettori, e l'ha ribadito oggi. Ma i suoi avversari, come ho detto, non mollano l'osso della Pennsylvania e sono in forze a Hensley, a 150 chilometri da là. There was a lot to consider. Of course, our family was first. As you know, We have, between the McCain family and the Palin family, we have three fine young men serving today on active duty military. La famiglia Palin e la McCain messe assieme hanno tre magnifici ragazzi in servizio in questo momento in Medio Oriente. Dovete considerare chi sono le famiglie che fanno parte di questo ticket. Questa è Cindy McCain, la donna la cui età noi non riusciamo a immaginare e non vogliamo andare a leggere su internet, perché vorremmo arrivarci per deduzione osservandola fissa nello schermo, ma per adesso non ci riusciamo, che ha aperto il comizio del ticket repubblicano. Anche qui pubblico ruggente, una folla che ha urlato la propria voglia di America che non cambia, di America tradizionale che smetta magari accettare alcuni accenti busciani, ma che resti legata alla propria natura liberista essenziale. Tra l'altro, nella seconda parte, insieme a un ospite, discuteremo dell'ultimo piano d'attacco repubblicano nei confronti di Obama, queste accuse di socialismo che si fanno sempre più forti e ravvicinate. Comunque, dopo Cindy McCain è salita sul palco lei, ormai la donna più discussa, amata e odiata d'America. We know that when it comes to national security, it is a given. We know the choice is so clear, it must be John McCain. But on taxes also, on our economy, you have such a clear choice. And I want to talk about this for a minute, because our opponent is not being candid with you about his tax plans. Il nostro opponent is not candid with you about tax plan, vuol dire non è candido, non è, come dire, non ve la racconta giusta riguardo al suo piano fiscale. Questo è il modo in cui parla, terra terra, ma chiaro chiaro, e a voglia se la ascoltano e se in tanti la amano e l'apprezzano. Sarah Palin, apparsa naturalmente in tono un po' più dimesso, ha dovuto anche limitare l'accesso al guardaroba, sapete lo scandalo che la sta perseguitando a questo punto di vista, ma è una che impara in fretta, migliora in fretta, i suoi comizi sono sempre più forti e anche sempre più graffianti, addirittura forse di più di quelli del capofila. Il numero uno del ticket, il vecchio senatore John della Arizona, che ci sta comunque provando fino alla fine a soffiare la Pennsylvania e forse una certa poltroncina a Barack Obama. I'm going to make government live on a budget just like you do. We'll freeze government spending, and of course we can freeze government spending. We'll freeze it on all but the most important programs like defense, veterans care, social security and healthcare. Eccoli gli argomenti tangibili che McCain può spendere davanti agli elettori della Pennsylvania: parlare di quattrini, parlare di pensioni, parlare di veterani, tutti argomenti che suonano chiari, no, allo stato del cacciatore, tanto per darvi l'ambientazione dove si sta svolgendo questo ultimo rush elettorale. I due ticket non mollano la Pennsylvania, si direbbe che quello stato è veramente l'ago della bilancia. Saranno veri i sondaggi, saranno veritieri? Il 50% solo degli americani accetta di dire a un sondaggista per chi voterà. Questa è una questione che non smette di preoccupare i democratici, che dicono sì, e l'altro 50% perché non lo dice? Naturalmente mancano 6 giorni, noi seguiremo da vicino questa evoluzione di fatti, di sicuro i due ticket sono ancora lì, no? Magari con la lingua a penzoloni, ma con una gran voglia di vincere, soprattutto di vincere questo Stato. che abbiamo messa per caso, no? La House of the Rising Sun, una canzone che ci evoca proprio, no? L'America profonda della Pennsylvania, la casa del sole nascente. Quale sole nascente? Quello di Obama, no? Del simbolo di Obama, o quello che ha invocato a più riprese McCain, dicendo che lo spirito dell'America, dell'America profonda, non può andare perduto dietro le promesse di un politico che, come ormai lui dice apertamente nei suoi comizi, non è completamente sincero. Torneremo a parlarne nella seconda parte del programma con un ospite per continuare a indagare in questo versante, no, della psiche americana. Prima pagina. Scivoliamo rapidamente sulle notizie cinesi, recuperiamo in qualche modo due fatti di cui abbiamo parlato anche ieri, questo scandalo della melamina che dal latte si sta spostando verso le uova. E allora cosa è successo? Walmart ha bloccato oggi la distribuzione di uova di un importante fornitore cinese, si dice a misura di precauzione. Walmart è il più grande distributore supermarket americano del mondo e in questo momento forse anche in Cina. Tra l'altro, certo, la FAO chiede naturalmente chiarezza e vuole da Pechino, insomma, accertamenti che la melamina non sia entrata nella catena nutritiva degli animali da cui poi arriva agli alimenti in questione, il latte e uova. Certo. Poi la seconda notizia importante dalla Cina riguarda questa spinosa questione col Dalai Lama. Ieri abbiamo letto le dichiarazioni ultime, pare, del Dalai Lama, che è un po' scorato, diciamo così, dell'andamento dei colloqui con la Cina. Addirittura sembra aver perso le speranze di vedere finalmente un Tibet autonomo e potrebbe spingere sull'acceleratore addirittura dell'indipendenza. Oggi è arrivata la risposta secca perentoria di Pechino, che dice: è una minaccia quello che dice il Dalai Lama, sta cercando di fare pressioni e di influenzare il governo centrale e l'Occidente. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese se ne è uscito con un proverbio cinese che naturalmente lascia l'interpretazione di tutti. Quindi e dice, li usano, ascolta le parole ma osserva le azioni di un uomo. E poi ha spiegato: la nostra politica verso il Dalai Lama è chiara e coerente, se quello che vuole è davvero migliorare le relazioni con il governo centrale dovrà portare a termine le promesse fatte a luglio. Quindi ma ce l'abbiamo anche noi uno simile, una battaglia. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo il Tibet, forse in questo caso. Proverbio italiano profondo, no? quanto a proverbi, eh? Allora, vogliamo parlare di ieri, di un incontro di cui diamo solo un antipasto. Ti ho visto tornare segnato nell'emozione. No? Beh, sono ancora emozionato, lo ammetto, perché naturalmente il mio giudizio vale zero, però secondo me ieri ho incontrato il più grande regista vivente. Allora, forse, non lo so. No, ma condivido, ci mancherebbe altro. Sto parlando di Francis Ford Coppola, che era qui a Roma ieri, è stato ospite del Centro Studi Americani, dove ha ritirato un premio, la seconda edizione di Cattedrali della Letteratura Europea. Il premio gli è stato conferito addirittura per Apocalypse Now, quindi torniamo indietro di 30 anni e oltre, il suo straordinario film sul Vietnam, ma tanto altro, insomma, c'era Conrad, Cuore di Tenebra, dietro e dentro questo film. E infatti il premio è stato motivato per la profonda valenza letteraria che aveva il film, e Coppola, insomma, è salito in cattedra con una straordinaria lezione di cinema, senza però prosopopea, devo dire, una persona umanissima, in alcuni momenti persino dolce, insomma, nonostante la sua imponenza, il suo grande fisico, questa sua barba bianca da profeta. Si è concesso amabilmente alle fotografie, alle strette di mano, a tutti che volevano toccarlo, Mr. Coppola, insomma, addirittura. Sì, poi lui è uno che ha proprio un'attrazione fisica. Esatto, però devo dire che è a suo agio, non si lascia, non si nega, insomma, all'affetto dei suoi tantissimi fan in tutto il mondo. Ha risposto anche a un giovane studente di cinema che si chiamava Coppola. Magnifico. Dunque, tutto ciò sarà oggetto di uno speciale di Jefferson Ming, ma ne concediamo, vero, un antipasto? Sì, una risposta che riguarda, insomma, il tema dominante negli Stati Uniti e nel mondo forse in questi giorni, cioè come vede l'avvicinarsi delle elezioni americane. The question was asked if because I voted do I think that there is hope? Devo dire che gli Stati Uniti forse sono un paese unico e peculiare, perché sono l'unico paese al mondo che è costituito totalmente, completamente da persone immigrate. Non c'è nessuno negli Stati Uniti la cui origine non contenga proprio nella definizione il trattino. Io sono italo-americano, mia moglie è irlandese americana, quindi tutti quanti hanno un'origine al di fuori degli Stati Uniti. E questo è stato comunque l'immigrazione ha dato portato grandi vantaggi a tutti gli americani, agli immigrati stessi, gli immigrati che hanno lasciato il proprio paese per venire da noi per cercare di realizzare il proprio sogno, ci sono riusciti, molti ci sono riusciti. Basta pensare a P. Giannini, che ha lasciato Genova, è andato a San Francisco e ha creato lì quella che si chiamava Bank of Italy, la Banca d'Italia, che poi si è stata trasformata nella Banca d'America, una delle più grandi banche a livello mondiale. E sono innumerevoli le storie di questo genere, di questo tipo, di emigranti che hanno lasciato il proprio paese, sono andati negli Stati Uniti realizzando dei grandissimi successi che hanno dato vantaggio e lustro agli Stati Uniti e al resto del mondo. In conclusione, quindi, come conclusione a risposta a questa domanda, devo dire che oggi abbiamo proprio un esempio di questi. Uno dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti è di origine keniota, è un cittadino che ha genitori di questa origine o comunque nonni di questa origine, ed è questo un altro esempio della capacità degli Stati Uniti in un certo senso di ripurificarsi attraverso l'accettazione e l'accoglienza di immigrati che rendono possibile tutto ciò. È il fatto che un contadino keniota abbia poi un nipote, perché il nonno era un contadino, abbia poi un nipote che grazie anche a delle borse di studio e grazie alla propria intelligenza ha potuto frequentare la facoltà di legge di Harvard e oggi essere il candidato favorito alla presidenza dimostra la grandezza di questo paese. Allora, torniamo a parlare di scenari americani in coincidenza con questo ormai meno 6 che contraddistingue la giornata di oggi rispetto alle votazioni del 4 novembre. Ci sono anche i vostri messaggi relativi al sensazionalismo sul supposto attentato dei due giovani neonazisti scoperti ieri negli Stati Uniti. Obama non si fa mancare niente, nonna malata, neonazisti, manca solo il figlio con le tonsille, scrive un ascoltatore. O ancora, siamo all'assurdo, chissà quanti ce ne sono al mondo di deficienti così, ma come si fa a fare un titolo di 9 colonne, Piero? Dai ragazzi, sensazionalismo sul presunto attentato Obama da parte dei media fa ridere, fucili di precisione in mano a 17 anni e meno male che li hanno rubati, altrimenti scoppiava anche la polemica sulla libera vendita delle armi. Poi, quindi avrebbero arrestato anche mio nonno buonanima, scrive Dan, perché diceva che avrebbe ammazzato tutti quei ladroni dei politici, giusto? Avessero voluto ammazzarlo, scrive Michelangelo, l'avrebbero fatto. Crederò alla storia del balordo che uccide il presidente quando la vittima sarà un repubblicano. Poi Maria da Pavia dice si sta proprio esagerando, due teppisti pirla, sembrano usciti da un film dei Coen, questo è vero. Poi ancora, è tutto così kennediano, sembra di vivere nella storia americana e la gente vuole entrare nella storia, questo mi sembra perfettamente vero. Si parla di buffonati, di buffonata. Luca ci chiede degli indiani, questo è un sms che ci inquieta, cosa vuoi sapere degli indiani, per chi stanno gli indiani? Ho dei sospetti. Poi Claudia ci chiede se parliamo di Sol Nascente o Sol dell'Avvenire. Buona domanda, perché proprio di questo parleremo ora con il nostro ospite. E Joel, il migliore di tutti, il mio personale Oscar, ha il messaggio di Joel che dice: vabbè, ma tanto tra poche ore parte la NBA. Stasera a luna di notte, se siete nottambuli, c'è Boston e Cleveland inaugurano la stagione. Piatto ricco mi ci ficco, invece mi ficco nel piatto dove in questo momento mi aspetta Andrea Mancia, il vice direttore Libera, in partenza per gli Stati Uniti per raccontare in diretta le elezioni, le sue elezioni, il suo punto di vista sulle elezioni, se non sbaglio, dall'Osservatorio della Virginia, vero Andrea? Buon pomeriggio a tutti. Sì, l'idea è quella di andare in Virginia, forse fare una puntata. Spiegaci perché hai scelto la Virginia. Perché quando ho deciso di comprare il biglietto aereo, la Virginia era ancora in bilico, mentre adesso è un po' di meno. E oggi dove andresti? Probabilmente in Colorado. In Colorado. Comunque, insomma, lì la scelta è sempre quella. Cioè, secondo me è in Colorado e in Virginia che si giocano le elezioni, posto che McCain riesca a resistere in Ohio e Florida. E questa battaglia stile Prima Guerra Mondiale, accanita fino all'ultima trincea della Pennsylvania, dove insistono a stare tutte e due, nonostante gli indici siano chiaramente per Obama. Ma ci sarà un motivo per cui continuano a stare lì? Beh, il motivo più diretto che mi viene in mente è che i sondaggi interni delle due campagne dicano cose diverse da quelli pubblici, diciamo. E un altro motivo è che in realtà un paio di gaffe di Biden e del democratico Murtha, che è eletto proprio nella Western Pennsylvania, diciamo, hanno scatenato una sorta di rivolta che per ora non è registrata ai sondaggi, devo dire la verità, da nessuno dei sondaggi, nei confronti dei democratici, soprattutto nel sud della Western Pennsylvania. E quindi, in realtà, la Pennsylvania è uno stato che è sempre stato molto in bilico in tutte le elezioni, è sempre stato vinto per uno o due punti dai democratici. E se McCain riuscisse a fare meglio di Bush, sia nel 2000 che nel 2004, in alcuni punti dello stato, mi vengono in mente i sobborghi di Pittsburgh, in realtà le possibilità, almeno demograficamente, ci sarebbero. Questo si scontra col fatto che i sondaggi continuano a dare un vantaggio per Obama in doppia cifra, però, quindi. Sì, e poi c'è questo articolo dell'uomo più preciso, poi l'ho conosciuto, più puntiglioso del mondo, anzi ti dà una bacchettata appena ti azzardi a fare così una cosa un po' approssimativa, si chiama Michael Barone, il numerologo di Washington, della politica americana, che dice: in un posto come la Pennsylvania l'ultima cosa da fare è fidarsi dei sondaggi, per il semplice fatto che quella della Pennsylvania in linea massima non ti rispondono, e quindi gli unici che ti rispondono probabilmente sono, diciamo, degli ultra all'italiana. No, gli unici che rispondono probabilmente sono nelle zone urbane di Filadelfia, dove in genere i democratici viaggiano intorno all'80%, quindi potrebbe anche essere questo. Io, a proposito di Barone, consiglio a tutti gli appassionati di politica americana di comprare su Amazon il suo almanacco della politica americana, che è qualcosa di fantastico. Beh, non è proprio una lettura divertentissima, però, molto istruttiva, diciamo. certo. Senti, ancora due cose, anzi una cosa e poi l'argomento principale. La cosa è un tuo parere anche abbiamo ascoltato i nostri ascoltatori, sul sensazionalismo, se mi passi l'espressione, che la stampa italiana in particolare ha legato a questa notizia dell'attentato. Non ti sembra che siamo un po' portati a esagerare in certi casi? Molto, io sono molto d'accordo con le email che hai appena letto dei tuoi ascoltatori. E devo dire che soltanto la stampa italiana ha fatto una cosa del genere, cioè non soltanto la stampa americana ha tenuto molto sotto traccia la cosa, e potrebbe anche essere comprensibile per non, diciamo, nell'ultima settimana prima del voto, per non esacerbare gli animi che già sembrano abbastanza virulenti. Quindi, diciamo, da parte della stampa americana potrebbe anche essere comprensibile, ma a me sembra che anche il resto della stampa internazionale non abbia assolutamente dato il risalto che la stampa italiana purtroppo continua a dare a notizie di questo tipo. Ora ogni paese ha la stampa che si merita. Senti, a proposito di stampa, qui c'è un messaggio personale per te di una tua ammiratrice, Claudia, che dice: prometti alla radio che se vince McCain, mancia, quindi è per te il messaggio, fate la prima di Liberal con scritto Good Morning America, modello manifesto 2004. C'è sul serio però, perché quella del manifesto mi sembra ricordare fosse un po' troppo azzardata. Io quello che posso promettere è che faccio il bagno nel Potomac, anche se... non so se è un posticino proprio. Comunque, ultima cosa invece, per stare su toni più legati alla attualità, vorrei un tuo obiettivo giudizio su questa questione, per carità, questione strategica di attacco, di posizionamento, di offesa, come dire, di offesa nel senso buono del termine all'avversario, ma questo tentativo di dipingere l'Obama redistributore, a cui si stanno, devo dire, aggrappando in modo sempre più intenso quelli del ticket di Obama, insomma, di McCain, insomma l'Obama socialista o qualcosa che gli somiglia, è una campana che può suonare alle orecchie degli americani? Ma in alcuni punti dell'America secondo me sì. Il problema è vedere se è stato fatto troppo tardi e quindi se magari anche gli stessi elettori che sarebbero propensi, diciamo, a essere colpiti da un tipo di propaganda del genere non possano credere che sia appunto l'ultima spiaggia della campagna, cioè un tentativo fatto in extremis per salvare una situazione che sta precipitando. La cosa in sé è sia razionale, perché il ticket repubblicano non può non secondo attaccare. Te andava fatta prima, cioè andava data un'indicazione di questo genere da prima. Esatto, il problema è che McCain come candidato ha fatto un inizio di campagna appunto in linea col suo personaggio, quindi col personaggio bipartisan, in grado di dialogare con i democratici, per poi, diciamo, attaccare quando la sensazione netta è che fosse abbastanza tardi, insomma, per far assorbire questo tipo di narrativa elettorale dall'elettorato. In alcuni punti degli Stati Uniti, e in particolare in alcuni punti nevralgici di alcuni stati chiavi, secondo me però è un tipo di propaganda che potrebbe far presa. Soprattutto io ho sentito un paio di giorni fa questa intervista rilasciata da Obama nel 2001, certo. Qui, diciamo, la micro gaffe fatta con Joe l'idraulico veniva estesa ad una filosofia di spesa, diventava qualcosa di più sistematico, in effetti. Beh, sì, insomma, adesso socialista in Italia non è una parolaccia nel senso ideologico del termine, certo, però negli Stati Uniti evoca qualcosa che a una gran parte della popolazione non piace, insomma. Va bene, Andrea, grazie. Base operativa in Virginia, dove è? Washington? Base operativa, sì, la prima notte a Washington e poi iniziamo a fare il giro della Virginia, forse una puntata in North Carolina. Bene, noi implacabili ti raggiungeremo per fare quattro chiacchiere insieme. Buon viaggio, grazie. E buon lavoro. Beato anche quel signore, un biondone col frangione, che da Fox News ci faceva le cronache della Florida, che poi è un gran posto per mettersi a fare a novembre le elezioni, perché poi fra un servizio e l'altro ti fai il bagno. Ci chiede Simo: condurremo una maratona radiofonica per Election Day? Certo, Radio 24 fa la maratona radiofonica per Election Day, una parte del quale probabilmente la prima, quella iniziale, sarà appannaggio di Jefferson Ming. Supermarket giovedì, tu lavori lì, direttore, tu lo sai, dimmi dove lei, non c'è, ammalata forse, comunque qui non c'è. Comprerò le banane, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, venerdì. Cosa deve fare McCain per chiudere il gap, per riavvicinarsi insomma all'avversario, visti i numeri dei sondaggi? E questo è il tema del dibattito in corso su Fox News in questo momento. Tra l'altro McCain è già arrivato a un altro comizio, credo che a questo punto della campagna elettorale arrivino anche loro in doppia cifra, ma non di punti, ma di comizi in una singola giornata. Obama è occupato invece a fare telefonate ai suoi eventuali sostenitori. E noi li lasciamo lì, no? Li blocchiamo come in una istantanea, li ritroveremo domani. E invece andiamo a fare quattro chiacchiere con un amico di Jefferson Ming, che già più volte abbiamo avuto ospite in trasmissione. Si chiama Matteo Donelli, ha 35 anni, di Reggio Emilia, manager di una importante azienda italiana che produce sistemi elettronici. Lo abbiamo raggiunto a Shanghai, dove dal 2007 si passa gran parte del suo tempo per avviare una filiale della sua azienda. Però questa volta, qualche ora fa, abbiamo parlato con lui, ma non tanto di Cina quanto di America, visto che anche lui ha avuto una frequentazione lunga, 3 anni, dal 2005 al 2007, negli Stati Uniti, in un posto particolare ma anche molto emblematico come la Carolina del Nord. E Matteo ci ha offerto alcune interessanti osservazioni sulla attuale crisi economica americana. Comunque cominciamo dai suoi ricordi di quando Donelli stava negli Stati Uniti. Sicuramente ricordo la facilità con cui anche le persone con cui lavoravo negli Stati Uniti avevano la possibilità ogni weekend di spendere i soldi che guadagnavano durante la settimana, la facilità con cui la carta di credito veniva strisciata ai ristoranti, alla sera, nei weekend, insomma con una grande facilità si arrivava a spendere quasi sempre molti più soldi di quello che vedevo io dei ragazzi che lavoravano con me guadagnavano durante la settimana. Quindi era poi anche difficile capire qual era il bilancio familiare di queste persone, che alla fine si trovavano giorno dopo giorno ad avere una carta di credito sempre più in rosso. Quindi Matteo, tu confermi un po' la tesi che ho sentito dire da tutti gli economisti, e cioè che uno dei fattori fondamentali di questa crisi americana è che gli americani hanno per troppo tempo vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Assolutamente sì, anche la facilità con cui si comprano le case, si sono comprate le case da parte di normali dipendenti negli Stati Uniti, la facilità ad esempio con cui le stesse banche poi non richiedono nemmeno nessun tipo di garanzia, o meno non richiedevano nessun tipo di garanzia, o persone o amici che hanno acquistato la casa avendo $2,000 in banca e addirittura facendo il mutuo non solo per l'arredamento ma anche per il matrimonio, quindi tutto dilazionato nel tempo, però assolutamente senza testa. Tutto dilazionato nel tempo, ma assolutamente senza testa. Sembrano gran sagge parole dette oggi, no? Questi ricordi di vita vissuta di Matteo Donelli in un'America che sembra già, come dire, del secolo scorso. Invece era solo qualche mese fa, quando con $2,000 potevi avviare tranquillamente l'acquisto di una casa tutta tua. Adesso il nostro ospite prova a illustrare dal suo punto di vista la situazione americana anche attraverso i racconti degli amici con cui è ancora in contatto. contatto, altre storie di vita vissuta. Sono in contatto tanti amici ancora in America, i quali parlano del fatto che oggi come oggi bisogna cercare, dicono loro, di tenere stretti il loro posto di lavoro, e soprattutto hanno scoperto che oggi come oggi la carta di credito non deve essere più toccata, e quindi piano piano devono assolutamente cercare di abbassare quella montagna di debiti che ogni famiglia o amici che hanno due macchine, un appartamento, tutte con la carta di credito strisciata, tra virgolette, ma persone che erano abituate anche a comprarsi la lavatrice o altre spese limitate da poche centinaia di dollari, sempre con la rateizzazione dei pagamenti attraverso appunto le carte di credito. E poi anche la facilità con cui una carta di credito si poteva cambiare nel giro di poco e avere accesso ad altro. Ma da dove si comincia a tagliare? Dalla macchina? Non si compra più il SUV, ma magari si compra una macchina più piccola e più economica? Dal ristorante, da certe spese? Dove sono i primi tagli che una famiglia in difficoltà in America in questo momento sta facendo? Ma quello che insomma deriva dalla mia esperienza di questi 3 anni, ho visto ad esempio il gallone che era passato soprattutto alla fine del 2007, era quasi raddoppiato da quando era arrivato all'inizio del 2005. Ho visto effettivamente molte persone che sono passate dai 4.000 di cilindrata come macchina a macchine molto più limitate, quindi gioco forza si sono rivisti a dover vendere la macchina. Quindi conosco amici che stanno vendendo la macchina perché costa troppo la manutenzione, e poi dopo anche il fatto che tante persone la cena che era prevista al giovedì, al venerdì, al sabato e alla domenica si esce una volta e basta. Tutti a casa a guardare la partita che costa meglio. Addio magnifico shopping. Concludiamo la chiacchierata con Matteo Donelli. Ci racconta come secondo lui guardano gli americani al futuro, soprattutto cosa si aspettano da queste elezioni. Vedono nelle elezioni una sorta di, come possiamo dire, di un cambiamento che deve avvenire per forza. Si attendono molto da questo voto e pensano che comunque l'economia abbia necessità, e questo è un po' strano da parte di molti americani che ho sentito, abbia necessità di un aiuto del governo. Quindi questo famoso liberismo che ad esempio io ero stato abituato ad assaggiare negli anni in cui sono stato, si sta un pochino frantumando proprio col discorso che le banche americane hanno a loro volta necessità di essere finanziate dagli stessi governi per stare in piedi. Quindi stranamente si parla un po' di socialismo negli Stati Uniti, dove una volta anch'io ho assaporato la totale libertà su tutto nei primi anni, nei 3 anni che sono stato appunto in North Carolina. Senti Matteo, da Shanghai, dove ti trovi in questo momento, arrivano notizie della crisi americana e soprattutto qualche effetto? I cinesi cominciano ad avere paura anche loro? Guarda, io della Cina sono, questi 4 viaggi che ho fatto, sono rimasto sempre sconvolto dal punto di vista del ritmo, della frenesia. Ho visto proprio in questi giorni anche qua che iniziano a aver paura della crisi. Si parla tanto del famoso ribasso del PIL che passa dall'11 al 9% qua in Cina, ma effettivamente qua c'è un'inflazione galoppante, e in effetti si inizia a parlare negli ambienti che inizia a aumentare il numero di persone disoccupate, e soprattutto si inizia a pensare stranamente che il prossimo anno anche qua in Oriente le cose non saranno così rose. E grazie al nostro ospite Matteo Donelli. Continuano ad arrivare i vostri messaggi. Ci scrive Makil, fa un suo pronostico. Secondo lui alla fine vince McCain 51-47. Naturalmente mandate i vostri pronostici, faremo i nostri conteggi, le nostre previsioni. Giancarlo Lavarese: McCain a questo punto deve solo tirare fuori Bin Laden. Ma McCain dovrebbe raccomandarsi al suo non molto amico a questo punto, George W. Bush. Parliamo domani, qui a Jefferson Ming. Ci sono io, Stefano Bistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro La Corte. La mail jeffersonming@radio24.it. Questa puntata in replica stasera alle 9, in diretta appuntamento domani alle 4 qui su Radio 24.